Roberta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi stiamo cercando di far pagare chi non ha mai pagato. Loro cercheranno di farla pagare a noi, vorrei essere chiaro. Ma voglio anche dire che non interpreto il mio ruolo per stare a scaldare una seggiola. Io sono lì per cambiare l'Italia. Se il palazzo deve cambiare me, allora vuol dire che non sono adatto. Certo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che Renzi che dice al Salone del Mobile non sono lì per scaldare la seggiola, diciamo, no? C'è una certa assonanza, non credo che lui avesse colto il momento per fare questa battuta, la faccio io insomma al posto suo, visto che fa il battutista in genere, ma diciamo che ha una certa pertinenza, no? La seggiola al Salone del Mobile era lì, era oggi a Milano, infatti sapete che questa kermesse internazionale che dura diversi giorni, che richiama gente da tutto il mondo, e poi all'Expo, che ci sarà invece l'anno prossimo, adesso ha visitato in luoghi, le installazioni dove si svolgerà la grande esposizione mondiale invece appunto dell'anno prossimo. Sono tanti i temi anche oggi, anche stasera, sapete che la cosa che più ha fatto discutere oggi è la presunta fuga di Dell'Utri, sarà scappato, lui dice che si sta curando, comunque è all'estero. Uno degli argomenti di questa sera, e su tutti gli argomenti voi potete esprimere come sempre le vostre opinioni o sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi SMS al 349 238 6666. Come sempre all'inizio però vi do un sunto della giornata. Dell'Utri, latitante, ricercato dall'Interpol, ma lui fa sapere dall'estero: sono malato, non voglio sottrarmi alla cattura. All'Italia a un passo dall'accordo con Etihad, il ministro Lupi dice sì del governo al piano della compagnia araba. Torino, una donna di 37 anni muore in ospedale dopo aver assunto la pillola abortiva. Nuovo minimo storico per i BTP, da lunedì l'emissione del nuovo titolo Italia. Rimborsi, 11 milioni di famiglie riceveranno 55 milioni di euro nelle bollette dell'acqua. Calcio in Europa League, la Juventus affronterà il Benfica il 24 aprile, oggi anche i sorteggi di Champions. Partiamo quindi dalla, diciamo, per ora presunta fuga dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri. È latitante, ricercato a livello internazionale dopo che oggi non è stato trovato in casa per essere arrestato. Non si sa dove sia l'ex senatore, che nel pomeriggio ha diffuso una nota in cui dice che non vuole sottrarsi all'arresto ma si sta curando per problemi di salute. È stato condannato, ve lo ricordo, Dell'Utri a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa ed è in attesa della sentenza definitiva che è prevista per martedì della prossima settimana. Andiamo subito alla politica con le parole del Capo dello Stato. Riforme, riforme e ancora riforme. La priorità del governo deve essere questa, almeno per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In un messaggio il Capo dello Stato auspica che tutte le forze politiche si impegnino in uno sforzo collettivo per uscire dalla crisi e in questo quadro c'è l'esigenza di pervenire a riforme istituzionali che rendano il nostro ordinamento più idoneo a rispondere alle sfide della competizione globale e favoriscano un riavvicinamento alla politica da parte dei cittadini. Intanto vengono rese note alcune precisazioni nel piano di riforme a firma Matteo Renzi. Il primo Senato durerà 6 mesi, il tempo di approvare una legge organica sulle modalità con cui i consigli regionali devono eleggere i loro rappresentanti e il nuovo ramo del Parlamento sarà composto da 61 rappresentanti di consigli regionali e 61 sindaci. Cade la soglia dei 40 anni, restano in carica i senatori a vita. E sembra rientrare la fronda del PD. Pierluigi Bersani auspica che il disegno di legge a firma Vannino Chiti venga ritirato perché così com'è sembra una pentola a pressione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo prima, Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, oggi è stato in visita a Milano. Prima tappa di un breve tour milanese, il primo da premier nel capoluogo lombardo per Matteo Renzi. Arriva al Salone del Mobile, parla alla platea degli imprenditori e promette una violenta lotta contro la burocrazia. Utilizzo l'espressione violenta. Noi non abbiamo alternative. Non stiamo semplicemente organizzando uno Stato diverso, dice Renzi, ma eliminando le province, proponendo l'abolizione del Senato elettivo, riducendo il numero dei politici, stiamo cambiando l'Italia e torna anche sullo stipendio ai dirigenti pubblici. Non è accettabile che l'Italia in questi 15 anni abbia visto bloccarsi i consumi, bloccarsi il ceto medio e vedere le retribuzioni dei dirigenti pubblici crescere in misura sproporzionata e inaccettabile. Riepiloga il programma dei prossimi mesi, legge elettorale, riduzione dei costi della politica, lavoro e lotta all'evasione. Ribadisce che con l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie ora le banche danno il loro contributo e poi si rivolge all'Europa. Noi che rispettiamo tutte le regole dell'Europa chiediamo agli europei di cambiare le regole perché non serve a niente avere delle regole tutte incentrate sull'austerità e sul rigore se la disoccupazione raddoppia, se il dolore delle famiglie vede delle persone che non ce la fanno più. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda invece le nomine nelle aziende partecipate dallo Stato, sia Matteo Renzi che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio hanno detto che le nomine saranno fatte lunedì o martedì al massimo, a rientro, cioè quindi del ministro dell'economia Padoan da Washington. Restiamo sulla politica. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto all'autorità garante delle comunicazioni perché in Rai, si lamenta il Movimento 5 Stelle, è troppo elevata la presenza di Renzi. 5 Stelle di nuovo all'attacco contro Renzi, questa volta nel mirino e la sua presenza in TV. Il movimento punta il dito contro quella che definisce una sovraesposizione mediatica del presidente del Consiglio, che è anche segretario del partito di maggioranza. L'accusa è di utilizzare gli spazi concessi per fare propaganda elettorale senza contraddittorio. È per questo che deputati e senatori grillini hanno presentato un esposto all'autorità garante delle comunicazioni, dove parlano di vergognosa violazione del pluralismo del servizio pubblico, di preoccupante servilismo che rasenta livelli da regime, di un premier che è diventato una sorta di showman ambulante. A titolo di esempio, la settimana dal 22 al 28 marzo, che in base a dati dell'osservatorio di Pavia, scrive il movimento, ha registrato una presenza del governo nel complesso dei TG Rai per il 45,4% degli spazi contro il 7,2% concesso al movimento di Grillo. Una sproporzione evidente che, dicono i grillini, non terrebbe conto dei rapporti maggioranza-opposizione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca con la vicenda di cui si è parlato moltissimo oggi, si continuerà a parlare nei prossimi giorni, ne parleremo anche dopo qui a Effetto Notte. La Procura di Torino e il Ministero della Salute hanno aperto un'inchiesta sul caso della donna morta all'ospedale dopo aver assunto la RU486, la pillola abortiva. L'autopsia è stata disposta per lunedì. Abbiamo seguito il normale protocollo, la paziente non aveva patologie pregresse. Parlano così i medici che mercoledì all'ospedale Martini di Torino non sono riusciti ad evitare la morte di una donna di 37 anni alla quale era appena stata somministrata la seconda parte dei farmaci previsti per l'aborto farmacologico, l'RU486. La paziente, che lunedì aveva assunto la prima parte dei medicinali senza manifestare alcuna controindicazione, ha accusato problemi respiratori e svenuta, ricoverata in rianimazione, per lei non c'è stato nulla da fare. Il sospetto dei medici che si sia verificato un'embolia polmonare, ma al momento non esistono certezze sulla causa del decesso. Paolo Simone, direttore sanitario dell'ASL Torino 1, al microfono di Simone Spezia. Finché non abbiamo i risultati dell'autopsia non posso escludere a priori una relazione con il farmaco, anche se mi sembrerebbe assai difficile e quasi impossibile. L'autopsia, che avrebbe dovuto essere effettuata in mattinata, è stata rinviata lunedì. Sulla morte della donna, che era la sesta settimana di gravidanza e già mamma di un bimbo di 4 anni, la procura ha aperto un fascicolo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se non ci sono problemi di collegamento, dopo dovremo raggiungere proprio Silvio Viale, che è stato, diciamo, il padre della RU486 in Italia, cioè è stato quello che ha spinto molto per l'introduzione di questa pillola nel nostro paese. Passiamo però intanto dall'Italia. Oggi, dopo aver visto ieri Matteo Renzi, l'amministratore delegato della compagnia aerea degli Emirati Arabi, la compagnia Etihad, James Hogan, ha incontrato questa mattina il ministro per le infrastrutture Lupi. La compagnia di Abu Dhabi potrebbe presentare un'offerta lunedì per rilevare una quota di Alitalia. Nella stessa giornata, sempre lunedì, si riunirà a Milano il CDA di Alitalia. Lupi ha detto che il governo comunque condivide il piano e aspetta la lettera di intenti di Etihad. Intanto però i dipendenti di Meridiana, aderenti a Filt CGL, UGL e USB, hanno scioperato oggi e manifestano all'aeroporto di Olbia. I manifestanti chiedono un piano di rilancio della compagnia aerea per evitare i 1200 licenziamenti annunciati dai vertici. Spostiamoci all'estero. Il giorno dopo il ritorno del governo greco sul mercato internazionale dei bond, dal quale era rimasto fuori per 4 anni, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha visitato oggi Atene. Continuare sul cammino delle riforme, per quanto dolorose, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha portato questo messaggio nella sua visita ad Atene. Credo che dopo una fase estremamente difficile ora ci siano molte possibilità di sviluppo in questa terra, per esempio nel settore turistico o in quello agricolo e anche nel settore internet. La Merkel ha riconosciuto i persistenti problemi nel settore del credito bancario che affliggono le imprese elleniche, ma ha lasciato intendere che Berlino è pronta a dare il proprio contributo sotto forma di crediti per 100 milioni di euro. Lavoreremo per la competitività della nostra economia, ha garantito il premier greco Antonis Samaras, che ha promesso: è finito il tempo in cui l'economia ellenica si fondava sulle grandi imprese o sullo Stato. La ricetta proposta da Samaras non è lontana da quella intrapresa anche in Italia: lavorare per garantire un terreno di gioco più favorevole alle imprese e puntare sulle nuove tecnologie. Nella breve visita ad Atene, la Merkel ha incontrato i giovani imprenditori portando con sé uomini d'affari tedeschi. Nell'incontro la cancelliera ha paragonato i 5 anni di crisi attraversati dalla Grecia al periodo della riunificazione tedesca all'inizio degli anni 90. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso torniamo invece sulle notizie italiane e parliamo di bollette, perché l'autorità per l'energia ha deciso che 71 gestori del servizio idrico dovranno restituire ai consumatori 55 milioni di euro relative ai circa 5 mesi intercorsi fra l'abolizione della remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato, ve lo ricordate, il referendum sull'acqua, proclamato il 21 luglio 2011, e l'introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa. Le società di gestione interessate dovranno accreditare l'importo a circa 11 milioni di utenti domestici coinvolti già nella prossima bolletta dell'acqua. E per chiudere il calcio con Champions Europa League. Difficile pescare un avversario morbido in semifinale, ma l'Urna di Nyon è stata comunque spietata con la Juventus. Bisognava evitare il Benfica, la più forte del lotto insieme ai bianconeri, assetata di vendetta dopo aver perso un anno fa proprio l'Europa League in finale. Invece è uscito il Benfica, andata a Lisbona il 24 aprile, ritorno a Torino il 1 maggio. Scherzo del destino, la Juve andrà comunque a Lisbona, nello stadio che sognava raggiungere con la finale di Champions, solo lo farà con un mese esatto d'anticipo, nella coppa sbagliata che però adesso è diventata obiettivo che fa gola a Conte e a tutto l'ambiente bianconero. L'altra semifinale è il derby spagnolo tra Valencia e Siviglia, ma le emozioni più forti le riserveranno i confronti di Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco e la finale anticipata, Guardiola contro Ancelotti, che spera di recuperare Cristiano Ronaldo a rischio per l'andata al Bernabeu. Poi ci sarà la sfida tra Mourinho e Simeone, due guerrieri, due motivatori alla guida di outsider di lusso come Atletico Madrid e Chelsea. Comunque vada, sarà un successo, lo spettacolo è assicurato. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sullo spettacolo assicurato io mi fermerei brevemente per aggiornare chi viaggia e leggo solo uno dei vari messaggi che stanno arrivando, sia attraverso SMS al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi. Dice questo ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno un nome così di fantasia, dice: ma perché Dell'Utri è scappato? La prego, me lo spieghi, dopo cercheremo di capirlo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Varie notizie da approfondire man mano qui a Effetto Notte con tutte le sere, con diversi ospiti, però intanto vi ricordo, prima di salutare il primo ospite di questa sera, quali sono state le notizie principali della giornata. Marcello Dell'Utri, latitante in Libano, lui dice: mi sto solo curando, però intanto è irreperibile in vista della sentenza sulla condanna per mafia che dovrebbe arrivare martedì. Renzi dice: da questo governo una violenta lotta alla burocrazia, intanto il Fondo Monetario Internazionale promuove il DEF, il documento economico e finanziario. All'Italia a un passo dall'accordo con Etihad, il ministro Lupi dice al governo piace il piano della compagnia araba. A Torino una donna di 37 anni muore in ospedale dopo aver assunto la pillola abortiva. Poi il nuovo minimo storico per i BTP e da lunedì dice l'emissione del nuovo titolo Italia. Rimborsi, una buona notizia, abbiamo sentito, 11 milioni di famiglie riceveranno 55 milioni di euro nelle bollette dell'acqua. E poi per il calcio, in Europa League la Juventus affronterà il Benfica il 24 aprile. E saluto subito Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alessandro. Buonasera a voi. Senti, quindi ci sono buone notizie ultimamente per il debito italiano, è così? Sì, continua l'interesse degli investitori internazionali soprattutto, che è molto forte, oltre naturalmente, come avviene tradizionale, sulle scadenze più corte per le famiglie. Lunedì, grande appuntamento col BTP Italia, che ha avuto un grande successo finora, speriamo che si prosegua col vento in poppa. Certo, ci vuole un po' di cautela, perché oggi abbiamo visto delle prime tensioni sul mercato secondario, quello cioè degli scambi fra banche, diciamo, non fra governi e banche, e i rendimenti sono un po' saliti, c'è un po' di ritorno alla prudenza e quindi noi lo stiamo un po' soffrendo, ma niente di preoccupante almeno per il momento. Senti, invece questo titolo, nuovo titolo che dovrebbe uscire, titolo Italia, come si chiama lunedì, di cosa si tratta? Italia, esatto. Siamo arrivati, questa credo sia la quarta emissione, è un'operazione importante perché finché non c'è inflazione quel rendimento praticamente è garantito, di fatto, perché l'1,65% è il tasso fissato, adesso poi vedremo sulla base della domanda. L'altra novità che c'è sul BTP Italia è da ricordare che la scadenza, diciamo così, il periodo di validità del bond passa dai 4 anni che è stato finora a 6 anni, cioè si allunga un po' la scadenza, e anche questo fa bene alle nostre finanze comunque, avere scadenze più lunghe. Ultima annotazione da fare per gli ascoltatori è che oggi abbiamo saputo finalmente quanto emetterà l'Italia nel corso dell'anno. Sono 450 miliardi di emissioni che saranno fatte, ne abbiamo fatte finora 120, quindi circa il 27% di quanto dobbiamo raccogliere. Grazie caro Alessandro Praterotti, buon lavoro allora. Grazie a voi. Grazie, ciao Alessandro. Adesso invece affrontiamo un tema grosso di oggi che sta facendo discutere, ha fatto discutere, anche se diciamo dalla gran parte poi della politica è venuto un appello quantomeno di buonsenso, non strumentalizziamo certe notizie, è un caso questo purtroppo, però non è un buon motivo per incominciare a brandire, no, la spada come al solito dei cattolici contro progressisti e così via, oscurantisti, illuminati eccetera. Sto parlando di quello che è successo purtroppo a una 37enne di Torino che dopo aver abortito volontariamente con la pillola RU486 è poi deceduta in ospedale, all'ospedale Martini di Torino. Come avete sentito anche dal riassunto che ho fatto prima della giornata, i medici dicono: noi abbiamo seguito tranquillamente tutto il protocollo come si fa sempre, e ci sono tante donne che ogni anno vengono qui a assumere questa pillola RU486, e lei in più aveva detto, assicurato che non aveva nessuna patologia. Ancora non è chiaro come sia successo. Allora io saluto Silvio Viale. Buonasera professore. Buonasera a voi. Ginecologo e ostetrico dell'ospedale Sant'Anna di Torino, direttore del principale servizio italiano per interruzione volontaria di gravidanza, appunto al Sant'Anna di Torino, ed è considerato il padre dell'introduzione in Italia della RU486. Vogliamo spiegare intanto, professor Viale, in breve, in modo chiaro, di cosa si tratta? Sì, è chiamata la pillola abortiva. In realtà è un farmaco che aiuta nell'aborto, sia quello chirurgico sia quello medico, perché prepara il terreno nel caso dell'aborto medico al secondo farmaco, che è una prostaglandina, che è quella che ha poi più effetti collaterali e anche qualche rischio in più, o prepara il collo dell'utero per l'intervento chirurgico. Ecco perché l'Agenzia Italiana del Farmaco, ma prima di lei l'Agenzia Europea, l'hanno autorizzata sia nell'aborto medico, che è quello oggetto di polemica, ma anche nell'aborto chirurgico e soprattutto negli aborti del secondo trimestre, quelli più impegnativi. Purtroppo la polemica è sempre legata al discorso dell'aborto, sì o no, sul perché e non sull'aspetto scientifico, che invece è ovviamente abbastanza certo ormai, non c'è più nessun dubbio, tutte le agenzie e tutte le società scientifiche sono abbastanza concordi sulla utilità di questo farmaco. Poi l'aspetto mediatico ovviamente sofferma sulla pillola abortiva, e l'idea è quella di una pillola che fa abortire, mentre in realtà è un procedimento medico o chirurgico che porta all'aborto, sia nel caso dell'aborto volontario ma anche nel caso dell'aborto spontaneo, quando la gravidanza si interrompe ma non avviene l'espulsione, quello che noi chiamiamo l'aborto interno o aborto ritenuto. Professor Viale, e da quanto tempo c'è in Italia questa pillola? Ma la pillola c'è in realtà dal 2005, quando a Torino cominciamo una sorta di sperimentazione, che fu un po' il modo per poterla introdurre, e io avevo chiesto di poterla utilizzare e mi fu detto sperimentiamola, cosa che fece poi sorridere un po' tutti, perché era un farmaco registrato in Europa, ma in realtà, essendo un protocollo che prevedeva il secondo farmaco, era il secondo farmaco quello che si sperimentava, non il primo. E poi contemporaneamente altre regioni cominciano a utilizzarla in modo così più o meno sporadico, in alcuni ospedali in Toscana, a Trento, in Emilia, e la registrazione avvenne poi nel 2009, la richiesta fu del 2007 e l'entrata in commercio effettiva è dal 2011, adesso sono io che ogni tanto perdo un po' gli anni, quindi sono di fatto 3 anni e mezzo che la si usa, 3 anni, e la stima è che ci sono state ormai 40.000 donne in Italia che l'abbiano utilizzata. Quindi è stata abbastanza, insomma, sufficientemente sperimentata, anche se abbastanza di recente, cioè 2011, però dice 40.000 donne in Italia. Questo è il primo decesso nel nostro paese? Allora, qui la situazione si complica un po'. Io prima direi un'altra cosa, direi che nel mondo è stata utilizzata in 2 milioni di casi nel mondo occidentale. 2 milioni di casi? Europa e Stati Uniti. Se poi consideriamo la Cina e altri paesi si arriva a parecchie decine di milioni. Se pensiamo che in Cina ogni anno ci sono 4-5 milioni di aborti fatti proprio con l'R486, è ovviamente un'altra questione. Sulla mortalità c'è molta confusione, guardi, perché le morti in gravidanza purtroppo sono una realtà. Ogni anno in Italia muoiono una quarantina di donne, pochissime di queste, quasi nessuna per aborto, durante la gravidanza o per il parto. E questo episodio di Torino è proprio un episodio anomalo, eccezionale, diciamo, come fosse un fulmine che ha colpito una persona, ecco, qualcosa di molto, poteva capitare qua, poteva capitare in altri posti, ed è una complicazione cardiaca di uno dei farmaci utilizzati, che sicuramente non è l'R486. Guardi, io le dico una cosa che oggi non ho ancora detto, perché l'ho avuto a verificare: meno di un mese fa è morta una donna per aborto, una donna di 34 anni, a Nocera, una donna di Angri, per un aborto chirurgico. Ci sono stati pochi articoli locali, c'è una denuncia in corso, e nessuno ne ha mai parlato. Oggi chi dice che la responsabilità di questa morte è dell'R486 si è completamente disinteressato, dimenticato di questa morte, di un aborto chirurgico in Italia meno di un mese fa. Io le dico di più, le dico che in quel caso lì, se avessero usato l'R486 per quell'aborto chirurgico, l'intervento sarebbe stato sicuramente meno traumatico, perché avrebbe preparato il collo e la complicazione, che sicuramente è stata una perforazione con emorragia, si sarebbe verificata con più difficoltà. Questo lo dico non per dire che in un caso o nell'altro, non per far polemica, ma perché si tratta, per quanto riguarda gli aborti, di eventi eccezionali. Cioè, le donne che soprattutto in Occidente, anche in Italia, muoiono per un aborto oggi sono sporadiche, e ogni volta siamo noi i primi a chiederci come mai e cercare di migliorare i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti, mentre purtroppo ogni anno in Italia una quarantina di donne muoiono in gravidanza, e di questi si parla sempre troppo poco. Professor Viale, tra l'altro, io dicevo prima, buona parte della classe politica oggi ha detto: aspettiamo di vedere, l'autopsia ci sarà lunedì e non strumentalizziamo questa cosa. Però le leggo giusto due commenti di due politici, per esempio Antonio De Poli, vice segretario vicario dell'UDC, che ha detto: sul caso di Torino serve un approfondimento, il ministro Lorenzini, la ministra, riferisca in Parlamento, si tratta, dice, del primo decesso in Italia, non vogliamo che si sottovaluti il caso né che venga strumentalizzato politicamente, ricorda la posizione dell'UDC sull'aborto, è nota, siamo per il diritto alla vita. Poi c'è invece il senatore Gasparri di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che dice: andranno esaminate tutte le circostanze del caso, ma da una prima analisi appare evidente che è stata la pillola abortiva la causa del decesso, e dice che la ministra Lorenzin venga con urgenza in Parlamento. Guardi, il senatore Gasparri ha detto una sciocchezza e non ho difficoltà a dirlo, dopodiché se qualcuno riferisce penso anche di querelarmi, e mi lo ringrazio, così il mio avvocato dice anche di avere qualche parcella. Il problema è che proprio non c'entra nulla l'R486. L'R486 è stata data 2 giorni prima e la donna è andata a casa, è tornata, stava benissimo, e se c'è un farmaco o una circostanza, compresa la gravidanza, che è un fattore di rischio, che ha determinato l'evento scatenante della fibrillazione, dell'arresto cardiaco, è probabile che sia uno degli altri farmaci utilizzati dopo, che sono tutti farmaci già segnalati per questo, ma che vengono utilizzati normalmente sia nell'aborto medico che nell'aborto chirurgico. Una morte analoga è successa nel 91 in Francia, e all'epoca anche ci fu delle polemiche perché era all'inizio dell'uso dell'R486, e si stabilì che fu la prostaglandina, tant'è vero che quel tipo di prostaglandina non fu bandita e non è più usata ormai nei paesi occidentali, si passò a un'altra prostaglandina. Quindi continuo a dire, il vero pericolo quando c'è, e poi per rassicurare le donne dico è sporadico, è un'eccezione questa, non è la pillola R486, cioè il mifepristone, ma è il secondo farmaco ed è la procedura ed è la procedura chirurgica quando questa avviene che creano più pericoli per la donna, e l'RU486 in entrambi i casi riduce i rischi e rende più facile dal punto di vista tecnico l'aborto. Poi sulla questione invece aborto sì, aborto no, io dico sempre, dico anche all'onorevole De Poli, che per parlare di queste cose bisogna sempre parlare con un test di gravidanza in mano quando uno non se l'aspetta, perché io vedo che la stragrande maggioranza delle donne quando viene è mortificata, è spaventata, perché è rimasta incinta e non se l'aspettava, non si aspettava 40 anni magari con due figli, e si sente mortificata, non lo dice alle migliori amiche, si vergogna, perché la vulgata è proprio quella che quando si rimane incinta è sempre colpa della donna che non ha fatto attenzione, non ci ha pensato, e purtroppo questi pregiudizi esistono. Quindi io le dico, guardi, nella mia carriera professionale moltissime donne, dico quasi la maggior parte, vengono da me sapendo chi sono, sapendo come la penso, e una delle prime cose mi dicono che loro sono contro l'aborto, ma che il loro caso è particolare. Non che siano contro l'aborto, ma perché l'aborto è un'estrema razza, quando capita la gravidanza non desiderata, non voluta, in un momento sbagliato, sapendo che uno o ha fatto o farà altri figli, e decide di abortire, ed è in quel momento lì che si verifica se uno stato civile permette di fare un aborto in modo regolare, sicuro, da un medico, o invece abbandona la donna a se stessa. Grazie professor Silvio Viale, la ringrazio, le auguro buona continuazione. Allora. Grazie a lei, buona serata. Grazie, buona serata. Adesso, prima di lasciarci, sentiamo, vedo che c'è Crozza diviso in due, da una parte Berlusconi e dall'altra Renzi, sapete che lui fa questa associazione da tempo, sentiamo un po'. Stato meraviglioso. Sì. Mi raccomando, grazie. L'Italia è tua, eh. Anche te, ciao Silvio, sei bellissimo. Figata, hanno fatto un duetto, adesso sta terminando, sì, si è chiuso con applausi. Bene, proprio nel momento in cui, quindi ci prendiamo una pausa di pubblicità e poi dopo con altri temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, sentiamo ancora un momento di Crozza, Crozza delle Meraviglie, vediamo se riusciamo a sentire qualcosa di compiuto. Adesso dorme in una brandina a fianco al banco frigo, è contento, si tromba la lattuga, stanno da Dio. Quando, sì, perché quando abbassava il prezzo agli alimenti pensava già a quelli che doveva pagare lui all'ex moglie. Una settimana fa il Papa, non so se all'udienza di Piazza San Pietro, ha svelato le tre parole magiche per far durare il matrimonio, che sono grazie, scusa e permesso. E poi ha aggiunto, ma soprattutto... Per un buon matrimonio non devi lavorare mai per la Conad. Ah, si rifà la pubblicità Conad di quello che si sveglia in mezzo alla notte che dice che gli è venuta un'idea. Vabbè, ritorniamo sulle cose serie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Tra poco vari temi, alla fine ci sarà, ve lo ricordo come sempre, venerdì anche Giuliacci. Però se vi siete persi le notizie principali, adesso ve le ricordo. L'ex senatore Marcello Dell'Utri, il latitante, ricercato dall'Interpol, ma lui fa sapere dall'estero, sono malato, non voglio sottrarmi alla cattura. È vicino l'accordo per Alitalia, un passo dall'accordo, il ministro Lupi dice sì del governo al piano Etihad, cioè la compagnia aerea degli Emirati Arabi. A Torino una donna di 37 anni è morta in ospedale dopo aver assunto la pillola abortiva, lunedì ci sarà l'autopsia. E poi rimborsi, 11 milioni di famiglie riceveranno 55 milioni di euro nelle bollette dell'acqua. Allora, come tema adesso dedichiamoci a quello della latitanza effettiva poi di Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, sarebbe irreperibile sin dalla seconda metà di marzo. Questo si evince da una nota della DIA, della Direzione Antimafia di Palermo, alla quale è stata delegata la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'ex senatore, emessa l'8 aprile questa notifica, questa ordinanza, per grave e concreto pericolo di fuga, perché l'ex senatore in attesa della sentenza definitiva della Cassazione sulla sua condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. Oggi ha mandato una nota Dell'Utri, però dall'estero, senza dire dove fosse, dicendo no, non mi voglio sottrarre alla cattura, in realtà sono malato, mi sto curando. E sentiamo a effetto giorno che cosa ha detto il suo avvocato De Peri. Io le posso dire che il dottor Dell'Utri ha sicuramente dei problemi di salute che sta curando, mi risulta che recentemente è andato in Francia per avere dei contatti con dei presidi ospedalieri che si occupano della materia cardiologica, è tornato dalla Francia. Io penso che quando ci sarà la Cassazione sicuramente opererà una riflessione su quello che dovrà fare. Quindi martedì rifletterà quando arriverà questa sentenza. Monica Ceravolo, ciao. Sì, ciao a voi. Eh sì, bisognerà vedere se lui si presenterà, perché lui dice io non intendo sottrarmi, però di fatto nella nota che oggi, come già avete detto voi, ha reso nota tramite il suo avvocato, non dice dove si trova. La fuga di Marcello Dell'Utri era nell'aria da tempo, soprattutto dopo l'intercettazione che ha visto protagonista suo fratello Alberto Dell'Utri, il fratello gemello di dell'ex senatore Marcello. Ebbene, in questa durante questa conversazione intercettata in un noto ristorante romano, Alberto Dell'Utri pianifica, insomma discute del piano di fuga di suo fratello, viene indicato appunto il Libano come uno dei possibili posti dove andare, oppure la Guinea, dove Marcello Dell'Utri avrebbe delle amicizie molto potenti, altolocate, dei politici molto influenti. Non dimentichiamo pure che Marcello Dell'Utri tempo fa ha acquistato una casa a Santo Domingo, lì ha trasferito tutti i suoi libri antichi, i suoi amati libri antichi esatto, lì anche la residenza, quindi anche quello potrebbe essere uno dei posti dove adesso si sta rifugiando, e ovviamente sono partite le ricerche internazionali, ma fino a questo momento nulla di fatto, quindi è stato dichiarato oggi ufficialmente latitante. Quindi l'ascoltatore chiedeva prima perché è fuggito, perché c'è questa sentenza che incombe su di lui martedì, se effettivamente è fuggito. Se poi, come dice il suo avvocato, martedì quando arriva la sentenza della Cassazione, fra le sue riflessioni, cioè fra le riflessioni un po' vago, nel senso che bisogna capire. Perché la vicenda è lunghissima, dura da 20 anni la vicenda processuale di Dell'Utri, però l'ultima parola potrebbe essere proprio quella di martedì, perché se la Corte di Cassazione dovesse confermare la condanna, a quel punto per Dell'Utri non ci sarebbero alternative alla galera, insomma sarebbe arrestato in aula se fosse presente e sarebbe portato in carcere, e quindi insomma è diciamo ipotizzabile che abbia scelto la via della fuga. Senti, Monica Ceravolo, in un minuto riesci a sintetizzare questa storia di 20 anni, proprio per sommissimi capi? Per sommi capi, sì, lui viene indagato nel 94, inizialmente per concorso in associazione mafiosa, e di lui parlano nel tempo alcuni pentiti, parlano di lui come intrinseco Cosa Nostra, come referente di Cosa Nostra, parlano dei suoi incontri a Milano con l'imprenditoria. Ci sono due processi, il processo di primo grado, un processo di secondo grado, e la Cassazione, che forse ricorderete, annulla l'appello e rinvia, cioè dice si deve rifare il processo. Questo si è concluso un anno fa con la condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Cosa dice la Corte d'Appello? Lui dice Marcello Dell'Utri era il garante dei rapporti tra Cosa Nostra e l'allora imprenditore Berlusconi, Silvio Berlusconi, parliamo degli anni dal 74 al 92, perché dopo il 92 la Corte stabilisce che Dell'Utri non ha più rapporti con la mafia. Ma in quel momento lui è garante di questi rapporti. In che senso? Quella era l'epoca, gli anni 70, era l'epoca dei sequestri. La sentenza stabilisce che Berlusconi, che temeva i sequestri, si affida a Marcello Dell'Utri, il quale fa da tradunion con la mafia e gli assicura una protezione in cambio di denaro, da cui il concorso esterno, perché la mafia attraverso quel denaro ha aumentato il proprio prestigio e la propria influenza. Il reato di concorso esterno è molto controverso, in poche parole significa che tu dai una mano a Cosa Nostra a crescere il suo potere. Questa è la motivazione per la condanna a 7 anni in concorso esterno. E adesso in associazione. Bisogna aspettare la sentenza di martedì, l'ultima tappa, insomma, di questa vicenda. Questa annosa vicenda, come avete detto. Sì. Grazie Monica Ceravolo. Grazie a voi. Grazie della chiarezza. E adesso invece l'Europa. Europa 24 notte. Cambiamo quindi argomento e parliamo di imprese d'Europa, aziende che delocalizzano in Austria. Perché le imprese italiane spostano la produzione nella regione austriaca della Carinzia o vi espandono le proprie attività? La dimensione europea delle aziende è un problema per i territori da cui partono, per esempio dall'Italia, levano risorse, levano investimenti, lavoro, eccetera. Esiste una fuga all'estero delle nostre aziende all'interno del grande mercato unico comunitario? Sergio Nava ha incontrato a Klagenfurt Enrica Maggi, avvocata specializzata nella consulenza legale nel campo del diritto internazionale. La Maggi collabora per l'agenzia pubblica carinziana di consulenza per le aziende Made in Carinthen. Mentre alcuni anni fa uno dei motivi principali per cui l'imprenditore guardava all'estero e in particolar modo all'Austria era il risparmio fiscale, la mancanza di burocrazia e discorrendo, in questo momento storico io sento sempre più imprenditori interessati alla stabilità del paese Austria. Gli imprenditori italiani sono stanchi di vedere leggi in Italia modificate continuamente e cercano un paese in cui ci sia una normativa stabile che permetta loro di fare business plan duraturi, quindi che abbiano durata 3, 5, 10 anni. Lei visita anche sul campo questi imprenditori. Normalmente quanti appuntamenti ha alla settimana o al mese? Quotidianamente noi abbiamo dai 3 ai 5 appuntamenti di imprenditori italiani che vengono in Carinzia a visitarci, quindi per toccare con mano qual è il sistema paese e vi discorrendo. Ma una volta alla settimana io mi reco in Italia per andare a trovare questi imprenditori che invece preferiscono che sia io ad andare da loro per dare le informazioni. E questi appuntamenti, mentre alcuni anni fa si svolgevano prevalentemente in Friuli o nel Veneto, adesso si estendono un po' a tutta l'Italia del Nord e sempre più anche all'Italia centrale. Quanto ha visto aumentare la domanda di informazioni con la crisi? Esponenzialmente, negli ultimi 2-3 anni è aumentata la domanda moltissimo, cioè si è quasi duplicata, direi. Percentualmente tra chi chiude e delocalizza e chi espande, lei su una scala da 100 come la suddiviserebbe percentualmente? Guardi, io spannometricamente direi che un 30% chiude in Italia, ma un 70% resta in Italia ed espande in Austria. Ho avuto un po' l'impressione che gli imprenditori però non vogliono molto parlare di questo tema. C'è un po' una tendenza a non voler parlare di questo pubblicamente? Assolutamente sì, diciamo che tendenzialmente l'imprenditore italiano si sente vessato o perseguitato dalle autorità tributarie italiane e lui teme che dando un'intervista pubblica o scrivendo un articolo su un giornale possa attirarsi l'ira di qualche ente italiano che poi comincia a fare delle verifiche cercando di trovare qualcosa che magari non c'è. Questo si ricollega al famoso discorso del segreto bancario austriaco? Ma no, il segreto bancario in realtà esiste ancora e per il momento la legge esiste, c'è. Si tratta proprio di informazioni relative al fatto che l'imprenditore vuole cominciare a fare un passo verso l'estero e l'imprenditore italiano non vuole che in questo momento la finanza italiana lo sappia immediatamente. Quali rischi corre? In realtà non c'è un rischio vero, perché noi diciamo sempre agli imprenditori italiani che loro devono dichiarare poi le partecipazioni estere in Italia, ma loro pensano che dando troppa comunicazione ai media la finanza italiana possa poi cercare di perseguitarli, ma questo è un loro timore, non è detto che sia così, però sento questo timore quando loro parlano con me. E cosa dice per rassicurarli? Ma io dico che la trasparenza sia il metodo migliore per non avere problemi. Lei ha l'impressione che chi si espande all'estero ha una chance in più per sopravvivere oggi? Ma secondo me assolutamente sì. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve ne ricordo quelle principali in pochissimi secondi, poi passiamo ad altri temi. Vedo adesso una notizia, vediamo dopo se riesco a aprire questa agenzia. Comunque, tra le principali, naturalmente, la fuga di Dell'Utri, il latitante in Libano, mi sto solo curando, dice comunque irreperibile in vista della sentenza sulla condanna per mafia che arriverà martedì. Renzi a Milano per l'Expo e il Salone del Mobile, dice da questo governo ci sarà una violenta lotta alla burocrazia. Berlusconi verso l'affidamento ai servizi, ma non diffami le toghe, dicono i magistrati. E poi a Torino assume una donna donna di 37 anni, la pillola abortiva e muore in un ospedale. Si riaccende la polemica sulla RU486, indagini della procura e del ministero. E notizia anche che l'attore Bud Spencer è ricoverato in clinica a Roma. E poi vediamo se... Ecco qua, gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni per la crisi ucraina. Nel mirino finiscono 7 leader separatisti e una società di gas della Crimea. Parliamo adesso di università, una brutta notizia perché secondo l'indagine Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, relativo al 2013, l'Italia è maglia nera in tutta Europa per il numero dei laureati, quello che è il numero più basso, e tra l'altro è agli ultimi posti in classifica anche per abbandoni scolastici, veramente dei risultati desolanti. Pensate che meglio di noi fanno la Romania, anche la Romania, la Croazia e Malta. Professor Marino Regini, buonasera. Buonasera. Docente di sistemi socio-economici comparati all'Università di Studi di Milano, tra l'altro autore di un libro sull'università malata e denigrata all'università italiana a confronto con l'Europa. Ci dice in breve come sono possibili una situazione del genere, certi risultati? È una situazione che fa veramente impressione, però purtroppo non sorprende completamente se conosciamo sia il nostro sistema universitario ma anche il nostro sistema produttivo. Sistema universitario, cominciamo col dire che siamo uno dei pochi paesi che non abbiamo un canale, come si dice, professionalizzante nella istruzione terziaria. In Germania, in Olanda, in Svizzera e in molti altri paesi europei, accanto al canale universitario, canale accademico, c'è un canale più professionalizzante dove si iscrivono studenti che hanno magari meno doti di tipo analitico, teorico, eccetera, ma hanno più propensioni a quello che viene chiamato l'applicazione delle scienze al mondo del lavoro e così via. Quindi questo canale è molto importante perché significa che c'è un minor abbandono per chi si iscrive a questo canale e perché c'è anche una maggiore possibilità di assorbimento dal mercato del lavoro. Poi un altro grande problema che abbiamo in Italia è il bassissimo grado di diritto allo studio. Questo fa sì che una quota rilevante di figli, delle famiglie meno abbienti, sono di fatto tagliate fuori perché non possono mantenersi agli studi attraverso forme di diritto allo studio che sono invece molto più rilevanti in altri paesi, nei paesi dell'Europa continentale, oppure sono forme di prestiti come nei paesi angloamericani e così via. In Italia non c'è praticamente nulla, c'è molto poco, e quindi questo porta anche molti studenti o a non perché vanno direttamente a lavorare oppure a iscriversi ma continuando a fare tanti lavoretti. Naturalmente noi sappiamo che quelli che studiano facendo anche dei lavoretti sono quelli che poi hanno molta più possibilità di abbandonare, no? A un certo punto. Tra l'altro, professor Regini, nella situazione contingente in cui ci troviamo, di crisi, questi dati possono anche peggiorare, no? Comprensibilmente. Eh sì, questi dati possono anche peggiorare. E c'è un altro problema però che va detto dall'altro versante, che è il versante del sistema produttivo italiano. Purtroppo il sistema produttivo italiano, che è un sistema, come sappiamo, fatto prevalentemente di piccolissime imprese, il Made in Italy è una cosa bella, ma non investe sul capitale umano, come si dice, ad alta qualificazione, cioè non investe sui laureati, non assume pochi laureati. Noi siamo il paese nel mondo che ha, tra i paesi dell'OCSE, insomma tra i paesi più sviluppati, che ha il minor numero di ricercatori nella forza lavoro, perché appunto abbiamo un sistema produttivo che è lontano dalla cosiddetta economia della conoscenza, basata sulla conoscenza. Quindi c'è anche poca domanda di laureati da parte del sistema produttivo, da parte del sistema delle imprese. Pubblica amministrazione, che era una grande assorbitrice di forza lavoro altamente istruita, da molti anni non assume più praticamente, e quindi noi abbiamo anche un'enorme carenza di domanda, per l'appunto. Questo scoraggia naturalmente ulteriormente i giovani a iscriversi, oppure magari si iscrivono, ma ripeto, mantenendo qualche piccolo lavoretto, poi se si trovano nell'alternativa di dover abbandonare il lavoretto per laurearsi oppure no, spesso abbandonano gli studi per continuare il lavoretto. E purtroppo, come dicevamo, la situazione attuale non aiuta ed è davvero triste, senza nulla togliere questi paesi, che Romania, Croazia e Malta facciano meglio di noi. Assolutamente sì. Grazie professor Marino Regini, grazie intanto. Grazie a voi. Buona serata. Mentre la serata volge al termine, così anche il fine settimana, ci chiediamo che tempo farà col colonnello Mario Giuliaci. Colonnello, sì, che tempo ci aspetta? Sera, il sole ormai è lì stampato, inossidabile lì dove si trova, o rischiamo di adombramenti? Ma guarda, questa è la tipica primavera, cioè non splenderà il sole dappertutto, non ci saranno nuvole dappertutto, non ci saranno rovesci dappertutto, però saranno due giornate tipicamente primaverile, tanto le temperature saranno gradevoli. Le nuvole riguarderanno domani soprattutto diciamo le Alpi, gran parte del nord Italia, eccetto la pianura centrale padano-veneta, le regioni appenniniche e rovesci nel pomeriggio, quella appunto sulle regioni appenniniche e sulle Alpi. Domenica la cosa peggiora un po', perché i rovesci sono più diffusi, più estesi, non solo le Alpi ma anche quasi tutte le regioni centrali, quasi tutte le regioni meridionali, ma anche qui solo nel pomeriggio, quindi vediamo anche il bicchiere mezzo pieno, no? Quindi due giornate dove potremmo dire il 50% è primavera nel senso tempo primaverile, bello, e anche con squarci di sole, l'altro 50% nuvole e temporali nelle ore pomeridiane. Sì, però questo mezzo bicchiere è sempre pieno di pioggia, diciamo la verità, ogni volta che ci consoli in questo modo sempre di pioggia. Certo, ma bisogna guardare, come dicevo, il bicchiere anche mezzo pieno di pioggia, per appunto. Grazie colonnello Giuliaci, il resto su www.meteogiuliaci.it. Buon tempo a te, colonnello. Grazie Roberta, un salutone. E a noi più tardi.